San Gennaro, Iesco Paz, Cubarisoni, Caciaruttu Caz. Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è Guarda, successo. no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascalzone, non ti stai lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è noia. Non ho detto gioia. Tu sei il più grande culatore del mondo. Senta, io sono veramente disgustato da quello che conducete, è una radio veramente seria della Confindustria che dà molte informazioni, però voi siete due veramente due imbecilli. Quell'altro, l'Alitalia lo dovrebbe portare in Israele, quello stronzo. Parenzo, parla degli immigrati che non li ha mai visti, non li ha mai visti, come non li ho mai visti io. Se non qualche volta per strada, ma in macchina, la mia bella berlina, quindi a me degli immigrati non me ne fotte un cazzo. Non me ne fotte un cazzo. Gli africani sono africani. Cioè sono persone che purtroppo hanno dimostrato di non avere una gran cultura del lavoro, tant'è che vivono nella merda. Guarda, io ti denuncio, vedrai che ti arriva la denuncia, bastardo che sei altro, stronzo che sei altro, vedrai che ti arriva la denuncia, stronzo che sei altro. Eccoci qua, David, anche oggi, che giorno è? Insomma, mi hai fatto una testa così, che giorno è? La giornata importante oggi, oggi è il giorno, sì, dello Yom Kippur, il digiuno di Kippur, l'espiazione dei peccati, 26 ore senza né bere né mangiare, fino a domani alle 19.40. Quante volte lo vuoi ripetere? E quindi non quante ci volte no, lo ripeterò perché è una delle feste più importanti e io ovviamente sarò ma a digiuno senza né bere né ma mangiare, né telefono né televisione, basta con tutta questa modernità, si stacca per un giorno. Ma io sono ateo, e fa bene, io sono e fa ateo. Ma tu sei quel che sei un maiale. Anzitutto, ma insomma sei Asmodeo, sei. Allora, della serie Italia paese di merda, ragazzi, io non mi stupisco ormai, c'è uno stupratore seriale, 20 violenze già fatte su ragazzini e ragazzini in ascensore, pianerottoli, un tale Edgar Bianchi, io non so perché questo qua fosse libero, ha violentato una ragazzina di 12 anni mercoledì pomeriggio a Milano, l'altro ieri. Allora, 20 violenze già accertate, pedofilo certificato, in libertà, libero di stuprare, di violentare, di fare violenza su un'altra ragazzina. Storia vergognosa. Ti pare normale una cosa Ma del no, genere? Certo Ti che non pare è normale? Normale? Una storia vergognosa, bene, sicuramente. Meno I male, magistrati meno dovranno spiegare. Infatti, mi pare che il ministro Orlando manderà gli ispettori. Ah, insomma, dai, la macchina dello Stato è in movimento per capire la quel che è dello accaduto. Stato già che non ha funzionato. Doveva, 20 anni, 20 precedenti per stupro. Sì, non c'è dubbio, 20 precedenti per violenza. È una storia indegna e vergognosa. Perché non è libero? Noi qui. Perché era libero questo? Qua, perché? Libero, non devi chiederlo a me, devi chiederlo a quel magistrato che renderà conto dai agli ispettori del ministero, magari renderà conto al Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organo, come tu sai, di autogoverno. Insomma, in democrazia ci sono organi c'entra preposti per spiegare. Ma non è una questione burocratica. Per spiegare bene quello che è accaduto. Una vicenda indegna, cioè, che sicuramente scusami, questo merita di essere scusami approfondita. Scusami. Mi sembra di quelle dichiarazioni sì, che fanno esatto i politici sì, di tanto. Sì. Un po' sei questo. Alfano? Sei Alfano? No, mi sembrava un po' questo. A Genova, no, tra il 2004 sì e il 2006. Sì. Questo sì, Bianchi sì, ha sequestrato sì bambine e ragazzine in androni ascensori, le faceva inginocchiare puntando dei coltelli alla vabbè, gola, le minacciava di morte, le leggere abusava. È stato condannato a 14 vabbè, anni e 8 mesi, ridotti a 12 in appello. Capito? 12 in appello. Qualcuno è uscito dovrà dal carcere nel 2014. Ha sbagliato, ma basta, cosa vuoi che dico? Basta con queste storie, basta! Pedofili in libertà, ma dico, ma siamo matti? Questo qua ha abusato in libertà, è un caso vergognoso sul quale ma che sei dovremmo Alfano fare ma che sul sei quale Alfano dovremmo assolutamente fare chiarezza. Dai, grazie. Su. Poi dopo le dichiarazioni dicono sempre grazie e se ne vanno. Alfano, Alfano, quella è pornografia, quella è essere miserabili. quella è pedofilia. Alfano è la pedofilia al potere, è il massimo dell'orrore. Dai ragazzi, è veramente una cosa grave, basta, basta, basta. E intanto il mitico Enrico Lucci è andato a rompere i coglioni ai grillini a Rimini. Con te non voglio parlare, chiaro? Bisogna stare attenti a Volta Gabbana. Ma chi è che si ha detto Volta Gabbana? Io sono un grillino delle origini. Sei un grillino di sto cazzo. C'è uno che ha fatto il Lucci più di Lucci, però uno. Tu sei un grillino di sto cazzo, uno di Rimini. Lucci con Carlo Taormina, che come sappiamo non è stato ben accolto tra i, no, 5 stelle. No, no, no, no, no. Taormina, sei rito, vieni qua! Vieni qua! Ma come Taormina con i 5 stelle? Ma che cazzo? Ma come Taormina? Ma che cazzo? Avvocato Taormina, ciao! Oh, mortacci tua, ma che cazzo? Ma come stai? L'ingresso trionfale dell'avvocato Taormina, iscritto ai 5 Stelle. Si candiderà col movimento? No, no, no, io non faccio assolutamente niente. È solo iscritto da 3 anni? Sono un iscritto e un da? Votante. Da? 3 anni? È un votante e un attivista. Con Carletto siamo qui insieme tutti quanti nel Movimento 5 Stelle. Carletto, se conosci qualcuno in Rai, io sono l'unico dei 5 Stelle in Rai, dammi una mano a fare un buon programmino. Beh, voglio presentare. No, voglio presentare Sereno Variabile e Sanremo. Volevo vedere con chi vai a parlare, con chi devi stabilire i rapporti. E che pensi di passare inosservato qua? C'è l'avvocato Taormina! Ma con chi devi andare a parlare? Non sono pezzi miei. A un certo punto Lucci incrocia la Raggi. Ti ricordi quando ti ho asciugato le lacrime? Chi c'era a fianco a te, Virgì? Dimmi la verità. Dammi un bacetto, Virgì! Ci stavo io! Incrocia anche Casaleggio. Carriuccio, ti ricordate quando ti davo il biberò? Stavo con voi. Sono stato. Oh, scusa, sono stato tra i primi, ti ricordi? Sono stato tra i primi dei 5 Stelle. Eppure Di Maio, se metto insieme a Ricci e Belletri, te batto. 30.000 voti? No? Se vediamo io, quanti ne prendi tu, poi parli. Se io metto insieme a Ricci e Belletri insieme, sì, mi votano tutti, te batto, te ducchio. Beh, stupendo, stupendo. Un genio. Intanto continua la saga dei rom di Guidonia, caro. No, no, la sagra, è proprio una sagra. So che quella non ti piace la vicenda dei rom di Guidonia. No, non. Non ti appassiona questa, no, cosa dei rom di Guidonia? No, niente, la leggo ogni giorno, vedo che appassiona molti. La molti guerra tra poveri, molti. La guerra tra poveri non ti appassiona particolarmente. Ma non è una guerra tra poveri, non è una guerra. La gente vede tutto questo, Europa vede, il mondo vede, chiederanno dove sono le vostre forze d'ordine. Il mondo vede non che voi bruciate tutto. Deve... Questo è un rom che si chiama Chizmik, che parla con la popolazione locale. Qui questi campi rom bruciano qualsiasi cosa trovano. Se la vanno a rubare o se gliela scaricano, se la vanno ragione a trovare chissà dove, bruciano e lasciano. Non no, devono lasciano esistere una campi, dateli case popolari, così non bruceranno più. Non, chi non è in grado di a chi comprarti un appartamento o un po' di terra. Quelli soldi che costruiscono i campi possono dividerli alle famiglie che si comprano terreno. In base a che cosa vi devono destinare delle case popolari? Pagate l'affitto, la luce, le tasse come le siamo paghiamo noi. Invece di andare a rubare, ci spogliate, oltre che ci spoglia lo Stato. Io ho cresciuto venite in Italia. Venite a rapinare dentro le nostre case, violentare le donne. Che vivo qua, tenetevi le vostre, le donne. Tenetevi le vostre, le donne. Tenetevi le vostre. Bel dialogo, bel colloquio, bello spaccato proprio. Beh, ma uno spaccato reale, perché che c'è? Sì, no, no, bello, reale, ma insomma, comunque istiga alla violenza. Bisognerebbe mandare lì qualcuno. Ecco, la politica qui è assente. L'assessore alle politiche sociali del comune di Roma, dov'è? Andrebbe mediata la situazione, mediata, no? Andrebbe raccontata, mediata. Andrebbe mediata. Dopo la politica deve mediare. Dopo 30 non devono, non devono, non si deve buttare benzina sul fuoco. Casa Pound, Forza Nuova che vanno lì, istigano, fanno, buttano benzina. La politica è mediazione, risoluzione del conflitto, parlare con queste persone, trovare una soluzione. Questa è la politica, la bella politica. Grazie. Arenzo, un giorno romperei cogliona questo rom. Intanto vengo ad apprendere, caro David, che a proposito del tema prostituzione, che sai mi sta molto a cuore, praticamente che cosa ha provocato la vicenda Nardella e tutti i provvedimenti presi da Nardella? Hanno provocato l'invasione da parte delle prostitute dei comuni circostanti. Beh, questo succede spesso. I comuni circostanti dovrebbero semplicemente adottare la stessa delibera di Nardella e quindi vedrai che si risolve il problema. E così vanno da un'altra parte. Invasi dalle prostitute. In Italia dovrebbero esserci questi provvedimenti e quindi vedrai che a un certo punto che il mercato fanno? Viene colpito. Ma e ve ne andate tutti quanti in Svizzera. Ma ve ne andate in Svizzera. Se volete fare l'amore a pagamento, ve ne andate in Svizzera. Invasi dalle prostitute per colpa di Firenze. Calenzano usa addirittura il DASPO, cioè fa quello che dici tu. Cioè il comune di Calenzano vicino Firenze adotta dei provvedimenti simili, ma protestano. Bravi. Questi qua perché dicono le avete mandate tutte da noi. Sgarbone ieri sera da Vespa, senti come parla di sesso in un modo completamente diverso. Ho interrotto i rapporti sessuali con Sabrina. Ho avuto vicino delle donne così tolleranti che ho voluto fare quello che volevo. E quando poi ho interrotto i rapporti sessuali con Sabrina, che è rimasta con me per 20 anni, in realtà qualunque cosa io facessi negli ultimi 17 anni non era un tradimento, perché una era l'anima e gli altri erano i corpi. Beh, bellissima questa cosa, ragazzi, questo è un inno al tradimento. Anima e corpi, anima e corpi. Questi sono i rapporti moderni, sono i rapporti che dovrebbero essere fondativi della nuova società, non quella di un tempo, non quella tua, David, dove il tradimento viene ancora considerato un crimine. Ragazzi, se vi piace essere cornuti, beh, accomodatevi pure, prego. Senti ancora. Senti, la moglie diventa poi come una madre, l'erotismo va altrove ed è così, non c'è poco da fare, così. Che tu potessi avere ancora dei rapporti fisici con tua moglie, la moglie a un certo punto diventa come una grande sorella, una madre, e quindi la tua azione erotica si sposta altrove. Se capisci questo, trovi un accordo. Se la donna invece diventa minacciosa per orgoglio, come era mia madre, la vita dell'uomo è molto difficile. Per amore occorre non sposarsi. No, io non mi sono mai sposato. E sono convinto che per amore occorra non sposarsi, perché se il tema è questo, il matrimonio è un'espressione di diffidenza. Se io dico che ti amo, la mia parola basta ed è l'amore assoluto, la diffidenza delle garanzie, che valgono anche per le unioni gay, sono una forma talmente materiale che porta poi alla rovina, agli interessi. L'amore è la negazione del matrimonio e il divorzio è un delitto. Beh, ragazzi, ma questo dovrebbe diventare altro che assessore alla cultura in Sicilia, è ministro della famiglia. Filosofia. Cioè, ministro della famiglia. Ministro della famiglia. Rapporto ideale è un uomo di 65 con una donna di 19, senti. Io credo che il rapporto ideale sia di un uomo di 65 con una ragazza di 19, che può a quel punto sposare pensando che quando lui sarà morto lei avrà una seconda vita compiuta. Per cui le differenze così brevi come queste, 30 anni, 32 anni, deve avere almeno 45 anni di differenza una donna. Ed è una misura civile se uno vuole sposarsi, altrimenti qualunque età va bene per un rapporto sessuale, per il piacere, per il sesso trainante. L'uomo deve avere un'età che è quella di un pensiero compiuto e la donna deve avere una giovinezza che non finisce. Perché tutto il resto non ha senso. Qualunque ragazza, Ori del Santo, sarebbe stata con Agnelli. Non conosco nessun ragazzo che sarebbe stato con la Levi Montalcini. Il che non vuol dire che l'intelligenza della seconda non fosse superiore all'intelligenza del primo, ma è che l'uomo cerca la bellezza, l'armonia, Venere, e la donna cerca invece la saggezza, la ponderatezza, il potere. Fermi lì, fermi. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo! La zanzara. La dovevo fare a nome di tutti gli italiani! Ho strappato l'Inps oggi! Ho strappato l'Inps! Ladri! Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Chris, questa è bella. Sgarbi vende il culo, amici, che per una poltroncina, per un altro stipendio, un altro vitalizio. La paura che i 5 Stelle glielo tolgono. Sta merda vende il culo, sta merda vende il culo. Sgarbi venduto, mi è caduto un mito. Mamma mia Sgarbi, che pena Sgarbi. Madonna, mamma mia che schifo. Oh, caro David, ieri ho visto uno Gino Strada ospite Piazza Pulita, sì, l'ho visto. Piazza Pulita. Dall'ottimo Formiglio. Ha di nuovo detto: bellissima trasmissione. Che Minniti è uno sbirro. Senti. Sbaglia. Ho usato un'espressione sbirro per definire la politica di Minniti. È stato molto criticato per questo. Molto criticato, sì, vorrei anche dire che insomma sbirro non vuol dire poliziotto. Credo che lo sbirro però sia una cosa diversa, è quello che abbiamo visto in tanti film. Il poliziotto corrotto e cinico che di solito usa del suo potere contro i più deboli. Beh, insomma, non è che ci sia andato leggero. È peggio il taccon del buso, si dice. Beh, il poliziotto corrotto che si rifà sui deboli. Cioè, Minniti sarebbe una specie di poliziotto corrotto che si rifà sui debiti. Però possiamo dire che Minniti sia corrotto, no? No, corrotto, possiamo dire. No, ma figurarsi. Sbirro. Che tende a risolvere militarmente in un modo crudele i problemi. Ma ragazzi, vedete, uno sbirro che tende a risolvere in modo crudele i problemi. Ma io dico, ma queste persone qua non pensano mai, cioè non hanno mai una responsabilità. Ma perché non si candidano e non governano? Perché non si candidano e non governano? Strada fa altro, fa il medico, ma, diciamo, ma salva le vite in giro per il mondo. Io non condivido in alcun modo il giudizio del dottor Gino Strada, ovviamente. Vabbè, ma che sei un politico che fa una dichiarazione? Non condivido in alcun modo le dichiarazioni che abbiamo sentito del dottor Strada. Gli auguro un buon lavoro e so che lui nel mondo svolge un ruolo importante, ma non è, diciamo, la mia posizione. Ma grazie. Sei ridicolo, dai, sì. Sei ridicolo. Va bene, Angelo, provincia di Bologna, vai. Sì, ciao Cruciani. Dimmi, veloce, senza viva voce e senza auricolare, se no mi fa incazzare, vai. Chiamavo solo per segnalare che ultimamente la Zanzara si è un po' snaturata, sì, ovvero sì. È una deriva contro Parenzo. Sì, tutti sì. Chiamano per Parenzo, la solita gazzarra, il solito ogni collaio. Tanto succede sì. Questo, altre no, volte non succede. Cruciani, succede nel 90. Vabbè, Angelo, questa non è sì, ma questa non è una comune un'analisi, non siamo sul lettino dello psicanalista per parlare della Zanzara. No. Per no, cui se devi dire qualcosa bene, altrimenti se devi fare la storia di questo programma non ce ne frega un cazzo, ti chiudo, ti mando serenamente con una carezza fare in culo e ricominciamo, chiaro? Sì, va bene, però questo volevo dire che per ma me... cosa vuoi dire? Non interessa a nessuno. È una riflessione anche in apertura delle trasmissioni che possiamo tenere in conto. Grazie per il suo contributo. Ecco, è arrivato l'altro, stasera dopo aver sparato a zero contro i fascisti ieri, stasera vuole essere tranquillo. Vai, stasera, Angelo, dai. Sì, perché nel giorno del Kippur bisogna chiedere scusa a chi si è arrecato danno. A volte la discussione, cioè i contenuti della discussione, solo quelli, contro Parenzo, tutti vincono contro Parenzo. Angelo, hai qualcosa da dire oltre questa minchia colossale, sì o no? No, non hai niente dire da dire. Vai serenamente, tranquillamente, con grande amore, con grande affetto, a fare in culo. Stefano da Napoli, vai. Salve, buonasera. Dimmi. Chiamavo perché volevo parlare con Parenzo di Campi Non Roma. C'è, è andato via. Dottore, no, è uscito, è andato via. No, io, allora, al di là del fatto che la maggior parte delle volte la penso come te, sì, però la domanda è questa. Sei mai stato in un campo rom? Cioè, tantissime volte. Per lavoro, per raccontare le situazioni di degrado, per raccontare le storie. Io sono stato in un campo rom. A Milano, a Roma, in tante città sono stato nei campi rom. Io sono stato in un campo rom a Napoli e ti posso assicurare che quello che ho visto nei campi rom non l'ho visto da nessuna parte. Vabbè, io mi occupo di rifiuti e ti dico la verità. I rifiuti che portano all'interno del campo rom, i rom, sono qualcosa di abominevole. Ma infatti nessuno ha mai detto che quelli sono luoghi della legalità, ma infatti sono da per chiudere i campi rom. Ma perché me lo dice a me? Sono impianti non autorizzati per la gestione. Ma posso io difendere ciò che non è legale? No! Ma che di che parla? Ma che me ne frega a me? Ma scusi, ma perché me lo dice a me? Lo so perfettamente perché cosa sono. Io sono contro il razzismo che c'è nei confronti di un gruppo di persone, definendole tutte quante ladre. Questo io dico ogni volta. Poi quello allora, che avviene in... i rom, tutti i rom che ho conosciuto, quali, sono dei... Guarda, io li ho conosciuti... Sono dediti alla al riciclaggio di rifiuti. Ma certo, ragazzi, dai. Ma quello che non sono c'entra quello, anche il rame, lavorano in rame, elaborano, sono delle ferramenta, ma insomma... Che tutti i rifiuti di risulta che producono per prendere 100 ma grammi cosa di vuol dire? Rame... E allora, e cosa cambia questo? La maggior parte sono criminali, dai, questa è la realtà. Ciao, ciao, ciao Stefano, ciao, ciao, ciao. Ma chi ha chiamato, ragazzi? Karma! Amico con questo mio. Non voglio parlare con questo. Amico voglio mio. Il telegiornale, voglio il radiogiornale. Voglio il radiogiornale, me ne frega niente di questo. Aspetta, ne vado, coglionazzo. Non è che se ne va. Aspetta un attimo, aspetta un minuto che c'è aggiornamento. Non mi va. Voglio il radiogiornale, arrivederci. Viate un zucco di frutta, viate un zucco di frutta. Aspetta 5 minuti, non ne va. Basta, vado a fare la pipì, voglio il radiogiornale, non mi interessa. Aspetta che ti devo fare un aggiornamento. Te volevo dire che mi è stato in genna faccia di nivoro. Perché? Io. Perché ti stessi? A me non mi danno 30 euro al giorno. Ma tu non hai bisogno, calma. Da parte. Senti, volevo sapere la tua opinione, dato che hai chiamato, sulla questione Nardella. Nardella. Come in chiesto Nardella, Giuseppe? Il sindaco di Firenze, quello che vuole. Ah, che dominchione che ci mandava un messaggio. Sì, sì, sì. No, io gli direi una cosa a sto signore. Se c'aveva bisogno di riscuotere tasse, vuole pigliare i soldi sui troie, non va bene per niente. Ecco, va bene per niente, perché noi avevamo bisogno di sfogarci tutti i giorni, anzi, un giorno sì, un giorno no, quando ci sono i soldi. No, cui... Giuseppe, il discorso è molto serio. Due secondi. Non voglio essere ripetitivo. Allora, ieri sera aveva chiamato pure una carissima lavoratrice del sesso stradale e vi ha spiegato, più che altro, signor Davide, che non esiste quasi più lo sfruttamento. Quindi di che sfruttamento vogliamo parlare? Quello è un caso particolare, dai. Quello è il caso di una signora. Basta, dai, a fare l'elogio della prostituzione. Ma hai stufato, schifoso, basta. Fai quelle porcherie che devi fare, ma almeno non vantartene, basta. Il maiale che ride, basta, ma avete stufato, vado a fare la pipì, ciao. Certo che si scecco quando sei brutto, va piscia, cammina, va tenne. Allora, il discorso è questo. Già ci hanno spiegato molto semplicemente una di queste ragazze, non è che avete chiamato voi, ma ha chiamato lei. Sì, sì. Ha detto che lo sfruttamento non vabbè, esiste. Ma insomma, ma alla fine a te che cazzo te frega se uno è sfruttato o non è sfruttato? Tu hai a te ti piace? Io un cuore, no, Giuseppe, no, adesso mo perché no. Anche io, il karma ha un cuore. No, sogno ministro lo sticcio, manna a fare, però comunque sia, anche se sono il re dello sticcio, ministro lo sticcio, cioè io sinceramente ho un cuore. Viva lo sticcio! Mi dispiacerebbe andare a troie e so che c'è qualcuno che la sera ci leva i soldi. Mi dispiace, però io volevo dire, ma secondo te perché non ci va in mezza strada, Giuseppe? Che mi ha fatto 700 km di botta, ma sogno cieco. Certo. Ma io voglio dire ai miei carissimi amici della Zanzara, è meglio se mettete i soldi in un porcellino, non salvatenaio, fate una volta a mese, due volte a mese, come faccio io, partite, fate pieno, andate lì, campatoio, posteggio, sempre ripetitivo per la verità, arrivate là, vi divertite, state una giornata, tac, passa polizia, vi fate quattro risate, anzi ci stanno pure i poliziotti, ma certo, caro, puro la ossia, ci rilassiamo. Karma. ci rilassiamo. Ciao Karma, ciao. Ci rilassiamo. Ciao Giuseppe, ciao. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi presenta La Zanzara. Ciro! Ciro! Ciao Ciro! Senti, senti chi c'è alla radio. Alla radio c'è papà tuo. Ciro, Ciro, di papà David, ciao! Parenzo, quando vuoi. Parenzo, ti voglio carico! Comunque ragazzi, quella di Ciro è sempre eccezionale, non c'è niente da fare. No, non c'è nulla di eccezionale. Quella di Ciro è sempre eccezionale. No, hai creato un mostro, hai messo in giro la classica fake news, hai creato, ma non c'è neanche bisogno di discutere di questa roba qua, è una roba, una cosa pazzesca, abominevole che hai fatto, mettendo in difficoltà tutti i miei affetti più cari. Ma hai fatto vero. Un casino. Comunque ti sta già scrivendo il mio avvocato, per cui c'è una diffida formale. Se viene rimandato in onda questo audio, noi chiederemo, credo, 300.000 euro di danni. Quindi anzi, rimani. scandalo, dai. Allora ragazzi, ieri a X Factor è successa una cosa incredibile. X Factor? Sì, a X Factor. Ti voglio raccontare. No, ma non l'ho visto naturalmente. Ho visto gli spezzoni di video. È un ottimo programma. No, ma non li vedo. Non è che posso passare due ore in televisione a guardare X Factor. No, questo che non capirà perché. Allora, la signora Maionchi, Mara Maionchi, ottimo giudice di X Factor, non sapeva cos'è lo squirting. Ti giuro, non sapeva cos'è lo squirting. È successo ieri sera, amico mio. Abbiamo aperto noi questa discussione. Senti. Film, chiudo la TV, iniziano gli scleri, night play, danger take away, filmati come i topi senza nome fanno squirt, qui politici poltrone con minori fanno squirt. Quindi squirt fa parte della vita tua o della vita di qualcuno che hai conosciuto? No, è veramente, ero curioso. Sai che io non l'ho capito? La porno rap, vedi, loro sono giovani, subito sono stati scattanti su quella roba lì, invece io una merdaccia di una certa età non ho capito un cazzo, ho capito solo squirt. Cioè all'inizio è una cantante che parla di squirt eccetera eccetera e lei non sa cos'è lo squirt. Aspetta. Come si chiamava una volta? Ma non si chiamava, io non ho mai visto una roba così, per cui non lo so. Io sono invece molto contenta di aver capito quasi alla vigilia degli 80 anni che cazzo era questo squirt. Per cui io ti ringrazio di avermi fatto capire questa cosa. Non sapevo che esistesse. Vedi, ho passato tanti lutti di vita a non sapere cosa succedesse. Finalmente il rapper me l'ha insegnato. Grazie. Cara Mara, non sei la sola. Vogliamo ricordare cosa ci disse in questa trasmissione la signora Del Santo, caro Parenzo, o no? Signora Lori, beh, ormai fai questa carrellata, diciamo, di informazioni. Questa carrellata. Signora Del Santo, sa che cos'è lo squirting? Ecco. Sì, è quel ballo dove muovi il sedere. No, non esattamente. Tipo frenetico, anche non è un ballo, è quella cosa. Cos'è lo squirting? Vabbè, non lo so. Sbagliato? Quello ma che no. Ti muovi tipo convulsamente. No, non è esattamente così, è una pratica sessuale, chiamasi squirting. Vabbè, adesso. Squirting. Poi anche Ilona Staller. Tu hai mai squirtato quando eri sul set? Ecco. Che cosa vuol dire squirtato? Non sai che cos'è lo squirting? No. Non sai che cos'è lo squirting? No, no. Mica mia, ma veramente, ragazzi, questa è la fine di tutto. Possiamo chiudere la zanzara. Anch'io non lo so. Vedi, voglio chiudere la zanzara. Non lo sapevo. Con questa notizia che Ilona Staller detta in si beve, che cos'è? No, io faccio altre cose. Io cago addosso ai clienti. E da ultima, amici miei, da ultima anche Eva Enger. Hai capito? Parenzo, hai Eva capito? Enger. La lista si allunga, diciamo. Tu sai cos'è lo squirting? No, non lo so, se me lo spieghi. Cioè, non sai che cos'è la parola squirting? Seppure una professoressa, come lei, non lo sa, vuol dire che, vedi, no, ma non ero il solo. È incredibile, Eva. Tu ho detto, non ero il solo. Io, Eva Enger, non sapevamo. Ragazzi, ma non è però mi insegni tu adesso e me lo dici cosa significa. No, dai, veramente. Cioè, anche Cicciolina, quando l'abbiamo intervistata, non lo sapeva. Cioè, tu non sai che cos'è lo E vabbè ragazzi, qui si fa anche palestra da questo punto di vista, grande insegnamento della vita di tutti i giorni, però fermi tutti, lo sai che noi mischiamo sacro e profano, oggi che cos'è David per te? Che cos'è oggi? Oggi è una giornata importantissima, che giornata è il giorno è? Dello Yom Kippur, e quindi io me ne andrò anche molto prima, è il giorno del digiuno, il giorno di Kippur, sì, l'espiazione dei peccati, è forse la festività ebraica più importante, non si beve, non si mangia per 26 ore. Per 26 non ore si, non si cioè, beve e non si mangia. Da oggi alle 18:30 fino a domani alle 19:40 non si beve e non si mangia. Io né berrò, né mangerò, né userò il telefono, ma starò con i miei cari, andrò in sinagoga a lungo. E cercherò di chiedere scusa alle persone alle quali ho fatto un torto. Pensa te. Abbiamo con noi una delle massime autorità italiane, non solo italiane, il rabbino Shlomo Becor. Buonasera, rabbino. Buonasera, carissimi. Eccomi qua. Come stai, rabbino? Come stai? Rabbino, chiamalo per nome intanto, rabbino. Grazie Dio, tutto bene. Allora, Shlomo, ma io non ho capito una cosa, scusami. Innanzitutto raccontami una barzelletta, che so tu sei esperto in barzellette. Vai con una barzelletta veloce. Esperto in Torah, lui. Come sì, vabbè, ma anche in barzellette. Un grande barzellettiere, vai. Ma una simpatica mi è arrivata non tanto tempo fa da un grande professore. Sì? Siamo in prossimità di dichiarazione dei redditi, per cui è un periodo per noi inizio dell'anno, per cui ci può stare. Allora c'è una persona che stava facendo la dichiarazione dei redditi e gli hanno detto, sulla domanda gli hanno chiesto: avete persone a vostro carico? Allora questo qui ha risposto giustamente: sì, ho 2.1 milioni di immigrati illegali, 4.4 milioni di disoccupati, 90.000 criminali in 85 prigioni, 650 cretini in Parlamento, più quelli della Comunità Europea. E questo qui ha fatto la dichiarazione e l'ha mandata, però gli hanno restituita indietro dicendogli che era inaccettabile. Ebbene, sapete cosa ha risposto questo cittadino? Perché ho dimenticato qualcuno, me lo dire chi è questo qualcuno che mi manca qua dalla lista? Ma barzelletta populista, questa qui va benissimo. Il rabbino populista. Caro rabbino, populista. Sono curioso di capire una cosa. Durante questo Kippur... No, il digiuno del Kippur. Questo digiuno del Kippur, no, si può fare semplice. L'amore? Si può scopare sì o no? Ma no, assolutamente. No, assolutamente no. Cioè, non si può fare sesso? No, vietatissimo. No. Amico mio. Fare sesso, ma come perché? Qualsiasi altro godimento, piacere, per cui non si può mangiare, non si può bere 26 ore, non si può fare nessun atto di piacere, perché un atto è un giorno totalmente dedicato al pentimento. Ma se uno gli viene, se uno gli viene, ma non gli viene, ma se uno gli viene voglia, ma non che gli fa? Viene voglia, ma per niente. È proprio nel punto che se uno capisce che può trattenersi un giorno, vuol dire che non è più un valore assoluto come per molti malati di mente, e allora può capire che anche in altri giorni può non venirgli. Questo ci viene a insegnare che pur non è solo un giorno solo, secondo... uno capire, non essere schiavo. Secondo te, per esempio, il karma, quello che va sempre a prostitute, eccetera, questo è un malato di mente? Ma sicuramente, quello sicuro. Essere dipendenti può essere anche di sesso. Uno che diventa malato di una cosa, fissato, cioè il karma. Tutti diranno che uno non fa del male perché non è come la droga e l'alcol, però diventa distorto, non capisce più niente, vede solo quello. Se una donna non riesce a salutarla, a valorizzarla in base ai suoi valori culturali, lui pensa solo a quello. Pensa solo a... Bravo, rabbino, grazie. Come ti capisco, amico mio, come ti capisco. Senti, come capisco. No, bravo che ha ricordato il principio del Kippur. Senti una cosa, ottimo. Ma la prostituzione, l'ebraismo e la prostituzione, per esempio, le prostitute come sono considerate? Ci sono nella Bibbia, ci sono dei racconti che quando sono andate, c'erano delle prostitute, ovviamente... Secondo la legge ebraica uno dovrebbe sposarsi con una donna, non avere così rapporti saltuari per divertimento, perché il sesso è qualcosa che Dio ci ha dato per procrearci, non per divertimento. Poi dopo non è che ogni rapporto deve per forza uno procreare, però... Cioè non è ammessa la prostituzione, non è consentita? Non è ammessa la prostituzione, no. Lucia, ci sei? Grazie rabbino, vuoi parlare con una prostituta, magari riesci a farla... Ma non è ebrea, che gliene frega. Ma che c'entra? Lucia? Dov'è? Che ha chiamato Lucia. Come stai, Lucia? Bene. Ma tanto questa qui non esercita, l'ha mai esercitata in vita sua, quindi... Ma come no? Senti, sto esercitando adesso. Come esercito? Che stai facendo adesso? No, siccome quello lì oggi è la festa sua, no? Sì, Parenzo, non devi dire parolacce. No, infatti, da stasera fino a domani sera non mi vedete meno più voi. Meno male non che mi vedete più stasera. Per un giorno non mi vedete più, né mi sentite. Ma io non ti vorrei più vedere. Ma è abbastanza reciproco. Comunque la perdono e le chiedo scusa se le ho arrecato in questo anno un danno. Ma non è vero, che chiedi scusa? Che sei pazzo? Kippur, devo chiedere scusa. Lucia, se le ho che ne offesa, pensi? Le chiedo scusa, che devo chiedere davvero scusa. Che ne pensi di Nardella? Nardella, quello è un bastardo. Loro fanno adesso queste perché ci sono le votazioni per la poltrona, sì. Ma con tanti problemi che c'è in Italia vanno a colpire le prostitute, i clienti guarda che nel Veneto si sono accoppati tre con le multe. Comunque tre. Lei è tranquilla perché tanto non esercitando mai, non avendo mai esercitato quel mestiere, lei è salva. No, volevo una tua riflessione per questo, solo su Nardella. Cioè, secondo te Nardella è un bastardo, questo hai detto? È un bastardo, e io sono del suo partito, Ma ti tolgo dal suo partito. È del PD questa qui? È del PD. Come è cambiato quel partito? Ciao amica mia, ciao. Arrivederci. Ciao, presto, ciao. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Quando arriviamo a Venezia? Tra 2 ore e mezza. Ah, ci fermiamo per uno spuntino? C'è traffico, rischiamo di tardare. Vabbè, vediamoci un film. Ma sto guidando. Ma allora perché abbiamo preso la macchina? Con Trenitalia puoi veramente goderti il viaggio. Niente traffico e non hai problemi di parcheggio. Con Frecciarossa vai da Milano a Venezia in poco più di 2 ore. E con l'offerta Super Economy viaggi a partire da €19,90. Offerta a posti limitati e soggetta a restrizioni. Scopri tutte le condizioni su trenitalia.com. Siamo con Federico a bordo di un caddy. Come ti trovi? È fantastico, soprattutto da guidare. Cambio automatico DSG, trazione 4Motion, motore TDI. Wow, è più tecnologico della mia auto. Vuoi fare cambio? Quasi quasi. Migliora il tuo lavoro con la tecnologia dei veicoli commerciali Volkswagen. Fino al 31 ottobre, se hai la partita IVA, caddy 2000 TDI è tuo da 10.900 euro oltre IVA grazie al contributo delle concessionarie aderenti a fronte del ritiro usato. Chiama l'800 400 300 per un appuntamento. Volkswagen veicoli commerciali. Il lavoro come lo vorrei. Oh, che bel disegno che hai fatto! Ho messo le foglie e l'acqua, perché è un'azienda verde. Mio padre dice che così non rovina l'ambiente. Allora do un 10 a te e uno a tuo padre. Se la tua azienda è green, ci guadagnano tutti. Con Azienda Green Premium di Dolomiti Energia, la tua azienda avrà energia pulita 100% idroelettrica e condizioni vantaggiose per una migliore efficienza energetica. Azienda Green Premium, nata oggi per il domani che immagina tuo figlio. Scopri tutti i vantaggi su dolomitienergia.it. Scopri Huawei P10 e P10 Plus con batteria a lunga durata e tecnologia supercharger. Li carichi in 30 minuti e li utilizzi tutto il giorno. Huawei P10 e P10 Plus. Make it possible. La Zanzara. A tutti i carcerati, a tutti i carcerati, uccidete i pedofili, uccidete i pedofili, bastardo. E chi li difende? Parenzo! Naturalmente. Minchia, Luciani, la voce di Lores mi attizza da morire. Anzi, come diciamo noi a Palermo, mi fa sbrugare. Che significa tecnicamente, mi suggeriscono dalla regia, caro David, far diventare l'uccello duro. Vabbè. Questa è la traduzione esatta, se vuoi, dal palermitano. Ma no, non su dati tecnici. Di però devo non... dire la verità, la voce di Lores fa arrapare. Lores da Vicenza, nostra storica ascoltatrice, fa parte del pacchetto di mischia ma della che Zanzara. Pacchetto è? Il pacchetto di mischia. Ma è il pacco, no? Il pacchetto. Pacco contro però pacco. La contro voce, la voce di Lores fa arrapare molti ascoltatori. Sì, devo dire, molti ascoltatori. Ma è gente. No, ascoltatori, quelli che chiamano, gente malata che non ha né arte né parte. Avanti, sentiamo. Però c'è un ritorno su Radio Padania di un signore di cui ci eravamo ormai dimenticati anche l'esistenza. Maurone da Mantova, il peggio di Radio Calabria, ex Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Non avendo un cazzo da fare dalla mattina alla sera, Maurone da Mantova interviene a questo punto a Radio Padania, inventandosi il bavaglio di Parenzo e Cruciani. Senti. Sono Mauro da Mantova. Oi, caro. Per forza, quando ti mettono il bavaglio in una radio, grazie a Cruciani e Parenzo, Parenzo ha messo il bavaglio a me, in compenso gli ha fatto la raccomandazioncina a Rai 2, a Viva il Campionato, mi sembra, così, con la trasmissione sullo sport che fanno. Dove quel Tamaro di Cruciani si presenterà a fare figurine. Dai. Scusa, ma tu mi hai raccomandato a Rai 2, no, secondo il matto. Ma è uno spoveretto. Per Viva il Campionato, programma che ovviamente non esiste. Non esiste. Ma cosa? Ma voglio dire, ma quanto male sta quell'uomo di giorno in giorno? Poi se la prende con la Marcegaglia, sua storica nemica. No, ma la sua storica. Ma non sa neanche. Posso dirti, però, scusi, ma adesso lo fai sentire. Ma la signora Marcegaglia non sa neanche chi è questo pazzo. Non è che siccome sono entrambi di Mantova, ma non lo spuzza, lo vede per strada, ma gli viene il ribrezzo anche, cambia strada, cambia marciapiede, fa disinfestare il marciapiede. Io farei disinfestare il marciapiede se lo vedo. Non è che la signora Marcegaglia, siccome è di Mantova, conosce Mauro da Mantova. Ma cosa che è di Mantova? Ma no, o con la Ninno anche, faccio per dire, di Mantova. C'è gente per bene, quella è gente per bene che sta a Mantova. Mantova è quello, è con la Ninno, è Palazzo Te, è Giove Giunone degli Amori degli Dei di Giulio Romano. Non è questo imbecille qui. Senti. Cosa ne sa lei della lui della Marcegaglia? Cosa ne sa? E anche lei viceversa di lui. Cosa hai detto a Radio 24 per fargli arrabbiare nuovamente? Ma perché quando io mi scaglio contro la Marcegaglia, che mi abita a 250 metri, che piglia 600 milioni di euro dall'MPS, e poi cosa mi dice lei lunedì scorso, in conferenza stampa in TV? Questo governo ha sbagliato a salvare le banche. Ma brutta deficiente, ma tu sei una di quelle che l'ha mandata a fondo, perché tu devi restituire 600 milioni di euro? Ragazzi, è evidente che sono dei deliri questi qua, del signor Mauro. Senti ancora ma Mauro. Ma meno male che anche tu li definisci deliri. Che poi abita a 600 metri da 250 casa sua. Ma non è vero, ma quella lì, ma cambierà casa, venderà le sue vie. Ma ti rendi conto? Aspetta. Dai, ma dai. Guarda caso, io 4 anni fa da Zanzara, quando riuscivo a parlare, sapevo già che erano quelli due insolventi, era ovvio, lo sapevo già 4 anni fa. Quando tu dici queste cose alla Zanzara di Radio 24, dai fastidio, perché lì si parla di robe ebraiche come si parla di Benedetti. E siccome che Radio 24 è la 7, che è di Cairo, è un ebreo, e a Radio 24 c'è un'altra precisa, ma dai, no, però. Ma Cairo ebreo. Ma non è vero, ma non è possibile. Questo li vede dappertutto, però. Ma dai, ma anche tu dillo che è un pazzo totale. C'è bisogno di aggiungere qualcosa. No, ma devi ricordarlo. No, perché tu posso dire oggi, hai una colpa in questi 6 anni nell'aver sistematicamente distrutto questo paese. Perché dando la parola a questo, dice no, ma fallo parlare, ha diritto di parlare. Fallo parlare, togliere la voce al popolo. Tu hai una responsabilità. Di accecarti. Allora io gli ho detto, beh, Cruciani, caro Cruciani, se non mi fai intervenire la prima settimana, tu a me nella tua radio che te l'ho portata sugli audience, non mi beccherai mai più, perché tu a me non mi tacci, non mi metti il bavaglio sulla bocca, perché se non parlo nella tua radio, che cazzo, parli in un'altra radio. E ti cullerà. Va bene, andiamo a Roberto da Roma. Bene? Vai, ma come fai a dire va bene? Perché devi dire va bene? Non devi dire va bene. Non, perché di dire va bene andiamo avanti. E poi si apre la porta e esce un altro mostro. Non va bene. Roberto. Perché è così sta trasmissione. È la matriosca dei mostri. Ne scopri uno e dici, cazzo, questo mi fai qui parlare con Roberto? Ma parla con Roberto, con Roberto, fai quello che vuoi. Io voglio parlare solo di Sadiq Khan in questa puntata. Non me ne frega che, nulla. Non me ne frega. Roberto, vai. Va bene. Salve. Dimmi. Senti. Pronto? Dimmi. Dunque, ieri ti ho sentito dire che i zingari sono anche poveri, va bene? C'è una parte povera, e che mi ha sorpreso, perché non esiste. I zingari poveri sono quelli che sono entrati ieri, l'altro ieri in Italia, ma poi noi li facciamo presto arricchire, sono tutti ricchi. No, tutti ricchi no, però ricchi. Molti hanno tesori nascosti, beni intestati in maniera fittizia, macchine che nemmeno Parenzo si può permettere, che nemmeno io mi posso permettere, eccetera, eccetera. Dillo che tu hai un SUV, Parenzo, hai un bellissimo SUV enorme. Sì, ma lo stai dicendo come se è frutto del mio lavoro, però pagato a peraltro ogni mese. Pare che sia un reato. No, pare che i Rom spesso hanno delle macchine anche superiori a quelle che hai tu. E ma come me ne frega? Con reddito zero. Ma che vuoi dire, Roberto? Non ho capito. Voglio dire che un criminale, allora, un ministro nostro, un criminale, ha dato il permesso di fargli entrare. Vabbè, Roberto, ciao. Giovanni da Venezia, dai. Giovanni. Sì, ascolta, niente. Cioè, aspetta un momento che sto cucinando. Niente, volevo dire un mio parere su Parenzo, perché mi sembra una contraddizione vivente. Io parlo tanto di buonismo, la violenza, tutte quelle menate, ma mi sembra che la sua religione concepisce la circoncisione di bambini, no? Sì, assolutamente, anche di certamente. Questo è interessante, come dice, tu sei contro la violenza, però guarda, non voglio discutere di questo. Sostiene Giovanni, sei a favore della circoncisione. Cosa c'entra la violenza? Tu lo sai che a New York, oggi tra poche ore inizia il digiuno dello Yom Kippur, di cui parleremo diffusamente, è una cosa molto importante, è forse la festa ebraica più importante. Diffusamente non ne parleremo. 25 ore di digiuno, di astensione senza bere e mangiare. Non parlo con questo poveretto che sostiene che la circoncisione sia un atto violento. Lo sai che non lo è. New York è in corso una campagna con dei grandi manifesti, ho visto, contro la circoncisione proprio come forma di violenza. Male, sbagliato, non è così. Secondo perché la maggior parte degli americani peraltro sono circoncisi. Giuseppe, l'80% degli uomini americani sono circoncisi. Ma quello uno lo fa quando è adulto, può farlo. Come Giuseppe dalla provincia di Latina. Io l'ho fatto 8 giorni. Secondo me è sbagliato. Giorni. Secondo l'ho me fatto è sbagliato. ai miei 2 figli maschi a 8 giorni. Ho fatto questo straordinario Giuseppe dalla provincia di Latina. Patto con il Signore, come si chiama. il patto col signore, chi te l'ha imposto? Qualcuno l'hai deciso tu il patto col signore? L'hai deciso tu il patto col signore? Io non discuto, non l'hai deciso tu, no? Non discuto in questa gabbia di matti. Io ho 8 giorni, ma non l'hai deciso tu, te l'hanno imposto i genitori, te l'hanno imposto, no? Ti hanno imposto di tagliarti il pisello, come a te ti imponevano di lavarti, e hanno avuto purtroppo scarso successo. Non mi provoca una cosa permanente. Io solo ringraziare per questa cosa che mi hanno fatto, il grande patto con il signore, una grande la circoncisione, il patto col signore, beh, è così, Giuseppe, dimmi. Intanto buongiorno, vai veloce, dai. Io volevo dire, l'altra notte, passando sulla pontina al campo rom di Castel Romano, purtroppo, grande testimonianza, mi sono trovato in mezzo a una sassaiola. Sassaiola. Terribile, episodio terribile. Beh, certo, che cosa è? Sì, per carità. Sì, terribile. Tra un momento mi entra un sasso in macchina. Mamma mia, chiamiamo subito. No, devo chiamare dalla vostra parte, noi carabinieri. Doveva chiamare o la redazione della Zanzara, Riccardo Poli, che chiamava subito. Infatti ha telefonato qui. Poteva chiamare dalla vostra parte, quinta colonna, è pieno di programmi che possono arrivare sul luogo, accendere una telecamera e cominciare la gazzarra. Vabbè. Giuseppe, allora? Ma dimmi, che è successo? Che è successo? Che ho chiamato i carabinieri e mi hanno detto, dice, ma quelle succedono tutte le notti. Appunto. Gente impunita. L'animale protegge, rispetta voi. Senti l'altro, gente impunita. Beh, ti ha detto animale, l'animale che protegge. È un animale. Chi è l'animale? Tu e tutti i rom, dai. Tutti insieme, no? Sì, vattene a fanculo, ciao. Grazie, caro, grazie della buona giornata. Giuseppe Catania, vai! Sì, Cruciani, ciao! Dimmi. Senti, io volevo intervenire per quanto riguarda il fatto di questi zingari di merda che stanno qua in Italia, che non è, la cosa è invivibile, non si possono sopportare più. Io, guarda, quando ci sono, ti faccio un esempio, quando ci sono le feste patronali, aumentano i furti negli appartamenti, aumentano i furti di automobili, di autovetture, aumentano tutti i furti più possibili, anche alle vecchiette, perché rubano anche le vecchiette. Dunque, soluzione qual è? La soluzione è buttarli fuori dall'Italia, subito! O vanno fuori a fanculo nei loro paesi di merda, oppure apriamo Auschwitz e li inforniamo. Basta, questa è la soluzione. Scusi, forse ho perso l'ultimo passaggio del suo intervento. Forse ho perso, perché è andata via la linea, il passaggio. Li inforniamo ad Auschwitz. Ecco, ho sentito bene. Li inforniamo ad Auschwitz. Certo. Dove si trova in questo strada. Sì, dove Datano si trova? In mezzo alla strada. Lei esattamente no, carta e penna, dove si trova esattamente lei ora? In macchina dove? In via del corso? Ma che deve fare? Scusa. Oltre ad augurarle di tenere ben strette le mani sul volante. Sì, mi sono già fermato, non ti preoccupare. Ecco, oltre ad augurarle tutto il bene possibile per lei e per tutti i suoi cari. Volevo capire dove si trova esattamente. In via? Ma dove qual si è trova? Il problema? Lo vuoi denunciare? Dove lo vuoi si denunciare? Trova? Mi trovo in via Vittorio Emanuele. Via Vittorio Emanuele dove? Vittorio Emanuele? A Catania. Davanti a quale civico? Rimanga lì fermo pure, metta le quattro frecce. Via Vittorio Emanuele. Vai via che manda la polizia questo. Scappa! Ma puoi mandare a chi cazzo vuoi? Zucchero è a Catania. Ascoltami. Dove sei, Zucchero? Dove sei? Fanno solo danno, sono lei dei parassiti, perché non vogliono lavorare, non vogliono un fare un poveretto. Cazzo. Lei è un poveretto che non vogliono lavorare, ma così. Lei è uno schifoso, schifoso per quello che ha detto. Lei è schifoso per come si è già diffusa la notizia, pure cornuto. Lei è schifoso. Lei è schifoso. Lei è una persona schifosa. Io lei ha detto delle cose abominevoli. Io spero che stasera, tornando a casa, ripensa a quello che ha detto e si vergogna. Si deve vergognare per quel che ha detto. Auschwitz. Lei ha parlato di Auschwitz per i rom. Quando vengono quando a casa tua a rubare, ma cosa dici? Ammazzano, si sposano tua moglie, fanno anche traffico di organi questa ma gente. Ma a lei qua, le hanno asportato il cervello, a lei gliel'hanno asportato! E che il suo non vale legge. Nulla! Quello è il traffico di organi che non vale nulla al suo cervello! Ma guè! Ma guè! Hai visto uno zingaro lavorare? Hai visto uno zingaro lavorare? Hai visto uno zingaro lavorare? Io vedo che anche lei non lavora. Sta telefonando alla radio. Quindi non lavora. Lei non sta lavorando. Lei fosse. Ma quale imprenditore? Ma stia zitto! Sei un imprenditore, non lei! La Marcigliani è un'imprenditrice, non lei! Lei è un poveretto! Lei è un poveretto, perché non lavora? Poveretto, non ho lei capito, perché sentito? Un poveretto? Perché è chiaro, la Marcigliani, mai sentito la Marcigliani telefonare a questa radio, no? Perché lavora ovviamente, no? Lavora, la signora Marcigliani, lavora, non è che telefona alla radio. Io parlo con te, con quello non ci parlo proprio perché non è all'altezza di parlare con me. Io sono un imprenditore agricolo. È un imprenditore agricolo che dice che i rom, dalle sue testimonianze, non hanno voglia di lavorare, oltre a ha detto anche delle altre cose, per carità. Io ho cercato. Ma che ha cercato? Della raccolta dell'uva ma lei deve cercare il suo cervello ma non lo trova. Ho fatto una prova. Lei sta cercando. No, non può fare prove perché non ha cervello. Questi che vendono le palle per strada là. Ma i quale palloni, palle per strada? Ma quale palle per strada? Non ci vengo io a lavorare. Non ma ci ti vengo, credo che tu. Non ci vengono da lei. Lei è stupido. Per forza venire. Non vengono. Perché non ci devono venire? Perché il lei motivo? È inutile. Inutile. Io sono inutile. Totalmente. Io guarda, sono un valore aggiunto. Ma valore aggiunto di chi? Tutti come me. Guarda, ascolta. Valore aggiunto di che cosa? All'economia. All'economia lei. Telefonando alla produce. Produce. Vergognati, si vergogni per quello che ha detto. Per Auschwitz, per cosa? Io porterei fuori a tutti, fuori dai coglioni, fuori, perché fanno solo danno, sono dei porci, perché in mezzo alla strada fanno i loro bisogni anche in mezzo alla strada davanti a tutti, non si vergogno perché sono degli animali. Io davo ragione a quello di ieri sera, a quel ragazzo là. Io davo ragione a quello di Roma, chi era? Quello ma di Roma che parlava che le vuole buttare sì. fuori. Ciao. A quel signore là. Ha ragione, se quello dagli il mio numero, Cruciani, se mi chiama la prossima volta che vanno, che c'è una guerriglia a Roma, sono io il primo a partire dalla Sicilia a partecipare per rompergli il culo a questi bastardi, a questi sciacalli, perché sono dei sciacalli. Ciao. Che battaglia. C'è gente che pensa ad Auschwitz per i Rom, ma c'è gente che pensa anche ai maghi. Nel 2017 ci sono persone che si rivolgono ai maghi. Uno dei più attivi si chiama il mago Vincenzo. No, Vincenzo. L'astrologo Vincenzo, napoletano, che è anche maestro di arti magiche. Ma quali arti magiche? Non esistono. Paolo, alias Andro Mercù, lo chiama facendo finta di aver rotto con il suo fidanzato, con il suo uomo Alessio. Pronto? Sì, mago Vincenzo. Mi dica, qual è il problema? Senta, io mi chiamo Paolo e sono assolutamente disperato. Cosa è successo? Il mio compagno stamattina mi ha telefonato e mi ha lasciato. Ho bisogno di recuperarlo assolutamente. Assolutamente. Io sono un vero sensitivo. Sicuramente come sensitivo la posso aiutare, sono sensitivo da 30 anni e faccio delle previsioni attraverso le carte, il pendolo, ho bisogno dei dati, meglio le fotografie e possiamo prevedere il futuro e vedere se è una rottura definitiva o se si tratta semplicemente di una rottura momentanea. Potrebbe anche essere una crisi e magari tra 3 giorni lo vede ritornare. Quindi lei può fare un consulto, una veggenza con me per capire esattamente le cose come stanno e avrà tutte le risposte di cui ha bisogno. La veggenza per vedere le cose come stanno. A questo punto ovviamente la telefonata prosegue. Ho visto anche che lei fa, come dire, dei rituali, dei legamenti. Se vediamo che la situazione è bloccata, è chiusa, che non c'è ritorno, che è tutto rotto, valutiamo di fare un rituale di legamento. Ecco, riesce a vedere io sono sensitivo da 30 anni e vedo tutto. Quello che le prevedo le metto per iscritto. Quello quello si realizza, potrà stare tranquillo. Ho bisogno di recuperare allora, questo rapporto. Mi deve fare le foto, i dati e mi deve fare una ricarica postpay del mio onorario euro 50 e con la massima velocità. È intestato a mio padre Armando Izzo, ma ce l'ho io. Se mi fornisce un numero di cellulare le mando immediatamente il numero della carta postpay. Quindi lei può dirmi se Alessio torna da me? Eccolo il primo pagamento, 50 euro. Ovviamente provvediamo a pagare. Ma chi e mandiamo pagato, io. In tasca tua? Assolutamente. E mandiamo fotografie. Mandiamo fotografie e dati falsi di persone che non esistono. Potevi mandargli la foto di Mauro da Mantova? E faccio una previsione seria sul futuro tra lei e il compagno, può stare tranquillo, c'ho lo studio aperto da oltre 20 anni e sono una persona non seria ma serissima. Lei mi potrà rimettere insieme ad Alessio? Se lei viene a Napoli ci vediamo, se no lo facciamo a distanza, dipende, io lo studio ce l'ho a Napoli, la facciamo a distanza su fotografia, viene benissimo lo stesso, stia tranquillo. Comunque lei fa allora questi legamenti d'amore che ci... tranquillo che il 18 marzo vado pure in Brasile proprio per far fare i rituali, ma se necessario lo facciamo prima del 18 marzo. I tempi stringono. Paolo, che ovviamente non esiste, dopo aver mandato foto e dati totalmente falsi di Alessio, suo compagno, anche questa cosa totalmente inesistente, richiama il mago Vincenzo. Sì, sono di nuovo Paolo, mago Vincenzo. Mi ha mandato anche delle fotografie, se non erro. Io ho mandato la foto di Alessio, sì, è bello, vero? Cosa è successo? Lui mi ha lasciato ieri. Dani, Giuseppe? Paolo, da Roma. Quando sei nato? Io sono nato il 13 gennaio 73. Lui si chiama? Alessio. Quando è nato? 28 maggio 89. Da quanto tempo stavate insieme? Abbiamo incominciato l'anno scorso la nostra relazione. E la foto che mi hai mandato di chi è? Sua, Alessio. Vediamo soprattutto la sua, che è quella che conta. Lui dice, lui mi ha lasciato, ha detto perché dice che io sono ossessionato dal sesso, dice lui. Pensa ad Alessio e dimmi stop. Stop. Diciamo che il sesso lo stava un po' scocciando, lo stava un po' appesantendo, ne aveva un momento un po' di minore desiderio sessuale. Magari a un altro. C'entra il sesso, c'è anche infedeltà. Quindi a un altro? Sì. No, come può avere un altro? Paolo Lupi, 13-1-79 con Alessio. Ma io sono nato il 13 gennaio 73. Sì, lo vedo, aspetta, 73. Pensa ad Alessio, quando sei concentrato mi dici stop. Stop. C'è tensione. Tensione. Tradimento. Mi tradisce. La vostra storia non è definitivamente finita, lo vedrai, però lo vedrai in maniera un po' strana, perché lui sarà preso pure da un'altra persona, quindi sarà un po' infedele, andrai e verrà, non ti darà più la stabilità che ti dava prima. No, ma è incredibile. Pensa, pensa intensamente poi fai stop. Poi si è inventato tutta una storia dalle foto, dalle cose, lui ti tradisce, un altro. Senti, senti la ancora. Situazione. Senti. Cosa c'è che non va nel mio sesso? Mi sono un po' stancato di avere una vita sessuale così attiva, ha voluto cambiare un attimo, capito? Quindi non gli piace come facciamo l'amore? Non gli va come andate, come fate l'amore. Ha voluto, si è un attimino distratto e c'è stata questa infedeltà. Ma lei dice che torna? Lascialo un po' stare, lui si riavvicinerà, però si riavvicinerà in maniera altalenante. Lei non può vedere con chi mi tradisce, perché io ho un sospetto, scommetto che è lui. Ho visto come lo guardava l'altra sera. Un attimo, sto vedendo il tradimento, c'è il tradimento. Io lo sapevo. Io lo sapevo, il maledetto. Con una persona che sta bene economicamente. Sì, sì, sì. Secondo me la vostra storia non è finita, però è una storia che si è indubbiamente complicata per la presenza di questa terza persona che secondo me andrebbe allontanata. E come faccio ad allontanarlo? E l'unico sistema per allontanarlo è attraverso la magia. La magia? Sì, bisogna fare un lavoro di legamento per avvicinare Alessio a te e poi bisogna fare un lavoro di rottura per dividere loro due. Hai capito, eh? Hai capito il furbacchione? È una baracconata. Hai capito il furbacchione? Si inventa una cosa inesistente, un terzo ricco, e poi dice c'è bisogno di un rito di magia. È una Vanna Marchi meno evoluta. Sia per avvicinare voi due, sia per scacciare l'altro. E secondo te si farà pagare per quest'altra buffonata? Sicuramente non lo farà gratis, questo qui sicuro. Dopo la pubblicità, che c'è la pubblicità adesso? Portacci vostra, la pubblicità, eravamo proprio nel clou. Fermi lì, eh. Finale col mago. C'è tensione, tradimento. La zanzara. C'è tensione, tradimento. Allora, caro Davide, facciamo un riassunto qui. C'è un signore che si chiama Mago Vincenzo. Che è un bandito, che è un bandito, possiamo dirlo? Sì, sì, abbastanza. Ecco, che no, impazza su internet. A lui si rivolgono diverse persone. Abbiamo mandato delle foto finte, abbiamo pagato 50 euro perché voleva questa PayPal. Cioè, anche questo è curioso. L'altra notizia curiosa della giornata è che tu hai pagato di tasca tua, non della radio, e ti fa onore, 50 euro. Cioè, sì, non offri la cena agli amici, per non offri la cena alle fidanzate. Per avere un visa, hai pagato questo imbecille per questa gheghina. Ti fa onore perché sei, come dire, aziendalista e non chiedi neanche il rimborso. Bravo, sottolineo. Perché crei un brutto precedente. Allora, però, torniamo alla storia. Sì, il mago Vincenzo. Mago Vincenzo, abbiamo mandato foto finte, dati finti di persone. Si è inventato lui di sana pianta una storia, tanto per spillare altri soldi al signore che ha chiamato, che peraltro è il signor Mercù, che si è inventato di avere un fidanzato con cui ha rotto. Questo è inventato fino a un certo punto, comunque. Adesso, ha detto il mago, c'è bisogno di un legamento. Perché le cose non vanno e si è inserita una terza persona. Ovviamente cose che non esistono. E come si fa? Seguendo i cicli lunari sarò io a fare lavori. Quindi quando cambia la luna lei può fare questo legamento? Il legamento si fa con la luna crescente, la rottura si fa con la luna calante. Lo posso fare ogni volta, ogni mese si possono fare tutti e due lavori. È un rito magico? È un rito magico, le date di fine di entrambi i riti. E questo lo fa lei e io devo essere presente al telefono? Adesso siamo in luna calante. E quanto verrà a costare questo rito, secondo te? Senti. E secondo le modalità che abbiamo già fatto, cioè io pago 50 euro, come funziona? No, il lavoro non costa 50 euro, costa molto di più. Mi può dire quanto? Il lavoro di legamento costa 600 euro. Quanti? L'ottura mi costa 650. 1250 tutti e due lavori. E pagati allo stesso modo come abbiamo fatto oggi? Abbiamo fatto adesso con la posta a parte le sue di spedizione, che saranno una ventina di euro. Quando ti mando il lavoro finito pagherai al corriere una ventina di euro. Io adesso vedo un po' come fare con i soldi, con questi 1250 e... le due, dai, non ti preoccupare. E allora ci risentiamo, va bene? Quando vuoi. Allora facciamo i conti, David. 50 euro all'inizio per sapere praticamente che la storia non si può recuperare e c'è bisogno di un intervento del rituale magico. Poi si aggiungono 600 più 650 più 20 di spedizione. Il tutto fa 1320 euro per fare i rituali magici con la luna crescente e con la luna calante. Giustamente Paolo si chiede a un certo punto: ma scusa, ma questi risultati poi sono sicuri oppure no? Pronto, caro? Sì, sono Paolo. Senta, i 1200 euro me li presta mia zia. Però volevo chiedere ancora un paio di cose. Se poi facciamo questo rito, mi assicura che Alessio torna da me? Ti dico che nel 90-95% dei casi i risultati si vedono. Tu segui i miei consigli e cercheremo di ottenere il massimo. Cosa succede alla fine di questi rituali magici? Ma lei ieri ha visto sicuramente che ha un altro? Ieri non mi ricordo cosa ho visto, ma quello che ho visto te l'ho detto. E io poi ho paura, perché io ho paura del rito magico. Cosa si fa nel rito magico? fare, non devi avere paura. Sì, ma come funziona il rito? Cioè, cosa si fa nel rito? Si tagliano ciocche di capelli? Non ti preoccupare, si accendono bamboline, si bruciano incensi, me lo vedo io, non c'è niente di male, non ti preoccupare, Paolo. Sicuro? Stai sereno, perché... non ci sono pericoli, non ci sono problemi. Perché lei ieri mi ha detto che mi manda per posta una cosa. Poi ti mando una cosa. Ma cosa? Ti manderò il rito che dovrei sotterrare. Sotterrare? Sì, o tenere a casa tua. Dipende da quello che faremo. Non ti devi preoccupare, non è niente di brutto, di negativo. Ma non ci sono aghi da mettere, perché ho visto tante cose in internet. Non c'è niente, nessun ago da fare o da mettere, devi stare solamente tranquillo. Devi stare tranquillo, dovrai sotterrare le cose che ti spedirò. Ma tu ti rendi conto che... Ma è agghiacciante. Tu ti rendi conto? No, agghiacciante, no? Agghiacciante. E poi senti, il mago truffa, vuole dai. I soldi subito. Vuole i soldi subito. Mago. Quando ci sentiamo, Vincenzo? Quando sei pronto, fammi la ricarica e partiamo subito. Perché mi ha detto che bisogna aspettare le lune calante o crescente. Poiché abbiamo una crescente e una calante, il lavoro siamo sempre in crescente o in calante, il lavoro lo cominciamo subito. Quindi nel momento in cui mi fai la ricarica, io acquisto e preparo il materiale e cominciamo il rito, capito? Allora 1200 euro. 1200, ok? Va bene. Se riesci a farlo stasera, venerdì chiudiamo già il primo rito. Ci provo, vedo. Provaci, se riesci stasera abbiamo tempo, venerdì chiudiamo anche il primo rito, guadagniamo tempo, ok? Eh beh, certo, guadagniamo tempo, il primo rito si chiude. Se me lo fa a me, guadagniamo tempo anche per me, che così, no? Saldo un po' di rate dalla macchina. Ma dai, ma sono dei banditi. Il numero alla Procura della Repubblica di Napoli, subito, ma che, dai. Ma ragazzi, ma secondo me sono truffa. Ma sono più deficienti quelli che si rivolgono al mago Vincenzo per risolvere i problemi d'amore. Ho capito, ma la nostra Costituzione tutela il cretino, quindi se uno è un cretino va tutelato. Ad esempio Mauro Domanto, Donato da Varese, possono cadere in queste trappole. Non cadono perché chiamano alla Zanzara e quindi hanno altri diversivi, ma sono i tipici prodotti del mago Vincenzo quelli. C'è tensione, tradimento. Sì, io vedo molto negativo. Ovviamente, caro David, io questi 1200 euro, permettimi, non li verserò mai. No, basta. Devi andare fino in fondo. No, amico, basta. Mio. Io proverei. Andare... No, non vado fino in fondo perché 1200 euro non li spreco per poi il mago. Chiedi il rimborso a Radio 24 e scrivi spese di rappresentanza. Col cazzo che me li danno. Comunque, ragazzi, questi hanno ragione. Questi ti credo. Sono dei buffoni. Questi sono dei buffoni. No, perché è un reato. Io non vorrei essere sempre quello che alza il ditino e dice reato. Chiamiamo sto mago, dai, chiamiamo sto mago. Vai. Pronto? Mago? Chi è? Mago Vincenzo? Sono io. Sì, buonasera, chiamo per conto di Paolo e Alessio. Sì, chi sono? Chi sono? Hai fatto una veggenza ieri, no? Sì. Per Paolo e Alessio, quei due ragazzi che stanno insieme, gay. Ti ricordi? Mi ricordo... Ti ricordi niente? Non mi ricordo, sì, mi ricordo, sì, sì. Ti ricordi? Sì. Hai chiesto anche 1200 euro per un legamento, no? Per un rito magico. Sì, Paolo voleva un rito da me, sì. Sì, Paolo perché sta con Alessio e Alessio lo ha praticamente lasciato, giusto? Sì, sì, sì, sì. Ti ricordi sì, o non sì, ti ricordi sì, una mazza? Scusami, mago. Non ti ricordi? Ieri ho fatto la veggenza a Paolo, no, io non sono un mago ma sono un sensitivo. Un sensitivo, sì, perdonami. E l'hai fatta, te non ti ricordi? Ti ricordi che cosa gli hai detto o no? L'esito, ma lei chi è, scusi? No, sono un amico loro. L'esito della veggenza non mi ricordo cosa gli dissi, se c'era ritorno o meno. Comunque loro potranno sicuramente sì. Darle informazioni maggiori. Sì, ma scusi un attimo, mago. Mago! Non si ricordava una mazza! Non sa niente! È tutto finto, buffone! Richiamiamo di nuovo sto mago, dai! Qua guardi, l'avevo detto al signor Paolo quello che... No, però Mago, scusi un attimo. Allora, le foto che ti hanno mandato, sono finte, non esistono, anche i nomi, anche i dati, tutto finto. Sì, va bene, ok. No, ma è una buffonata, è una baracconata. Inutile che abbassi il telefono, tanto prima o poi ti pizzichiamo, Mago Vincenzo. Anche perché no, io Mago, sensitivo. Ma io voglio €50 comunque. Non so se sente indietro. Che lo sto per mandare a farlo in culo, però non so se sente questo. Scusa, ma sensitivo, dovrebbe sentirlo. Mi dovrebbe ridare €50 o no? Beh, quello dubito che le rivedrai, Vai, dubito fortemente. Ragazzi, mi sono rotto il cazzo del Mago. Semproni. È tornato lui, Gianfranco Semproni da Pescara. Persona ineducata. E una fatta, una battuta, ha detto "Oh, bicio freak". E si ho detto "Scusa, perdonami, sono 40 anni che sento sempre questa cosa, o bicio freak, ma che vuol dire? Io non lo so, me lo potessi spiegare? Lo possiamo appurare. Perché è una vita. E finalmente questo signore, con grande gentilezza, mi ha spiegato che praticamente c'era un signore che stava facendo l'amore in piedi e teneva la panza. Quindi mentre faceva l'amore, ogni tanto voleva baciare a quella questa donna signora, con quale stava facendo l'amore, però come se ci stava la panza, come deve lo baci, se ne sceva lo piselle. E allora, capito, dopo al torneo normale, ardeva un bacio e l'avevi fatto 7-8 volte che lì, quella lì, quell'amica si era rotta le scatole e ha detto "Sinda fra, o bici o frighe". E da lì è nata questa... Vabbè, io ti assicuro, ultimamente sono, come sai, spesso a Pescara. Per fortuna non mi è mai capitato di trovare questo signor Semproni. Aspetta che c'è un finale. Incrociato. No, perché là se ci stava uno che teneva la nerchia lunga, potevi baciare, cioè. Ecco, vabbè, sarebbe o Treschi o Spicciolare. Cioè, ma non lo so. Questa è più un'alternativa. Mi hanno detto questa spiegazione che io ti ho detto per 40 anni. Quando mi dicevo "Oh, bicio freak", mi stavo zitto perché non sapevo che cosa c'era dietro. Le due cose si possono fare insieme, in piedi, solamente se hai la nerchia lunga. Semproni Dixit. Là ci vuole la nerchia. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi presenta La Zanzara. Ho strappato l'Inps oggi! Ho strappato l'Inps! Lo dovevo fare a nome di tutti gli italiani! Lo so che ti piace quando ti mando questa roba. È una cosa, l'ho fatto a nome di a parte come lo dice l'Inps, ma l'ho fatto a nome di tutti gli italiani. Cioè, beh, questo ogni volta. Ma perché non dedichi questa bellissima puntata di oggi, monografica, ad esempio, potremmo fare un grande racconto del grandissimo sindaco di Londra, Sadiq Khan, anziché ancora mandare questa povera deficiente all'Inps. Sadiq Khan, voglio che gli ascoltatori lo sappiano, era figlio di un autista da autobus pakistano, ma chi lo se ne frega? O no? Studente modello, ma avvocato chi se ne dei frega? Diritti civili, chi deputato, se ne frega? Adesso, prima di sentire prostitute, gangbang, solite ammucchiate, gente che scambia il partner con altri quattro, fammi dire, deputato bleriano, ma non me ne frega prima niente. Cittadino della capitale inglese che vuole ma rimanere. Ma che c'è di nuovo? Che c'è di nuovo? Nulla, niente, c'è nulla. Una cosa che sto leggendo su Repubblica. Che ma chi se ne frega? Oggi, ma leggi tu queste cose. Sadiq Khan. E allora mi volevo condividere con te, no, i nostri ascoltatori. No. Quelli che non chiamano, quelli che ora stanno tornando a casa dopo una dura giornata di lavoro, volevo condividere con voi il fatto che il figlio di un autista d'autobus pakistano è diventato sindaco della grande hai città. Hai detto la stronzata questo della serata. Questo è quello dai che noi vogliamo raccontare. Basi, questo è quello che vogliamo esaltare. Tu vuoi non questa imbecille che dice che a nome degli italiani ha strappato. Ci informa che ha strappato. Cos'è poi la tessera dell'Inps? Mi sto informando. No, i bollettini, forse i bollettini. E quindi? Che a cosa porta strappo? Cosa vuol dire che ha strappato la testa? Qual è la battaglia epocale? Cos'è questa Gandhi italiana? Intanto ti avverto David, tu e quella lì anche. Ti avverto David che è tornato via WhatsApp il grillino palermitano. Sì. Oh, senti. Mamma mia. della massoneria non se ne parla, e a chi ne parla lo prendete pure per il culo. Vi dovreste solo vergognare, siete due coglionazzi pagati, rissi in mail da rimassoni. I massoni comandano pure a voi, cirate un culo ai massoni. Siete vergognosi, la rovina del mondo è la massoneria, perché non lo dite, bastardi maledetti, indegni, schifosi. Ma adesso cosa c'entrano i massoni? Ce l'ha con tutti e due stavolta. No, non senti, mi senti ancora, non... senti ancora. Non mi pagano, ma... Cosa l'avete a fare sentire, però? Non è che avete scantato, lo facete sentire. Il problema numero uno del mondo sono questi massoni bastardi maledetti, che sono ovunque, ai vertici del mondo. Questo è il vero problema, lo dovete dire e lo dovete ripetere fino alla... Parlate ogni giorno dei massoni, non parlate degli immigrati, perché è colpa dei massoni bastardi maledetti se c'è il suo mondo ridotto così. Hai capito, Parenzo? Hai capito? Pezzo di merda, schifo della terra. La massoneria e Parenzo ti accostano, ma no, anche alla massoneria. Ma perché? Ma non ho mai frequentato. Tu però ti faresti pagare anche dalla massoneria? Ma se legalmente, con fattura, assolutamente sì. Senza alcun allora problema. Fermi tutti. Se ci fosse la fattura tutti. Fiscale, ovviamente. Fermi tutti, senti, sì, senti. Fermi. Torna la rubrica Fenomeni Paranormali. L'indagatore dell'incubo, il sottoscritto Cruciani, e lo scettico Parenzo presentano un'altra puntata. In questa puntata un professore all'Università di Pisa, tal Corrado Malanga, ci racconta dei suoi incubi con gli alieni. Malanga. Professor Malanga? Sì. Buonasera, qui Radio 24, salve. Allora, professore, lei mi sembra che sia conosciuto come uno dei più grandi esperti di interferenza aliena. Sì, lo sono stato, diciamo così, perché ora credo che il problema sia abbastanza risolto e quindi... Cioè, in che senso è risolto, scusi? Nel senso che dopo 25-30 anni di studio e di lavoro siamo riusciti a comprendere che cos'è l'interferenza aliena, se effettivamente esiste, come funziona, chi sono gli alieni che vengono su questo pianeta, come fanno e come liberarsi anche di questo problema e cosa vogliono. Addirittura, ma innanzitutto esistono gli alieni? A voglia, ci sono diverse razze, sostanzialmente in pochi secondi, sì, diverse razze che vengono su questo pianeta perché interessa a loro una cosa che noi abbiamo e che loro non hanno. All'interno degli studi che abbiamo fatto, sì, con le ipnosi regressive, sì, circa 3.600 persone, sì, siamo riusciti a verificare che in ipnosi regressiva il soggetto è fatto di tre cose dentro di, sì, sé. All'interno del profondo di ognuno, sì, c'era una parte che parlava con una coscienza particolare a cui noi abbiamo dato un nome convenzionale, sì, e il nome convenzionale era di parte animica. Quindi avevamo visto che c'era una parte animica, una parte mentale, una parte spirituale. In parole poverissime, sì, la parte animica non era caratterizzata dall'asse del tempo, quindi era sostanzialmente immortale. Da quel punto di vista l'alieno cosa voleva? L'alieno voleva questa cosa che noi abbiamo e che lui non ha. Cioè? In parole povere, l'immortalità. Cioè l'alieno si introduce nel nostro cervello per avere l'immortalità, ma noi nemmeno abbiamo l'immortalità però. Certo. All'anima, dice lei, l'anima. No, sì, non abbiamo l'immortalità perché la parte animica entra all'interno del nostro contenitore per fare proprio l'esperienza della morte, perché attraverso l'esperienza della morte comprendere come la morte in questo universo non esista. Scusi, ma allora non ho capito che cosa vogliono questi alieni. Cioè, gli alieni hanno paura di morire. Sì. L'alieno ha paura di morire. E dunque si sarebbero introdotti nel nostro cervello per fare cosa? Il loro tentativo, sì, è quello di tentare di prendere la parte animica, che è un gruppo di vettori e di tensori, e di utilizzarla per non morire. Mm. Sostanzialmente è come una specie di distributore di benzina che non finisce mai. Ma ogni tanto rapiscono questi alieni? In Italia le vecchie ipotesi che noi avevamo fatto statisticamente erano sopra l'1%, quindi l'1% degli italiani ha questo problema. In America Bud Hopkins, che si interessava di questo problema... Cioè l'1% degli italiani è stato rapito dagli alieni? Va bene. Assolutamente sì. Ma rapito, da che punto di vista? Cioè rapito il cervello? Rapito il cervello, fisicamente? Tutto. Che cosa? No, il cervello. Aspetta. Dunque, no, esistono due tipi di rapimento. Il primo è in solido, cioè si apre una finestra spazio-temporale, questi arrivano, portano la loro essenza nella tua camera da letto, sostanzialmente, e ti portano poi sulla macchina volante e fanno delle cose. Sulla macchina volante? No, io aspetto, d'accordo, va bene, perché c'è l'altro che dice aspetta, io aspetto. Lei ha avuto questa esperienza? Siamo arrivati alla macchina volante, va bene, per carità di Dio. No, non ho avuto questa esperienza. No. E altre persone volante. Invece hanno avuto esperienze di macchina volante? Assolutamente sì, d'accordo, la macchina volante. E lei come l'ha scoperta questa cosa? Con l'ipnosi oppure attraverso altre cose, microspie, che ne so? Microspie, va bene. Dunque, la fai intercettazione. Aspetto. Il problema è legato al fatto che i soggetti che hanno questa problematica ovviamente anche tutta una serie di microchip che si sono incastrati nel loro corpo. Ecco, questo lo sentivo anch'io, perché il microchip mi sta dicendo una cosa dentro di me. Comunque, ma in che modo si sono incastrati questi microchip? C'è una presenza aliena che aspetto, va bene. Sono posizionati in alcune parti del corpo e servono per monitorare il soggetto, che viene poi preso e ripreso a più riprese, se così si può dire, in tutta la sua vita. Ma chi le piazza questa qua? Gli alieni, queste microspie? Beh, certo, chi le piazza? Sì, assolutamente sì. Assolutamente. Si caratterizzano dal fatto che si vedono la risonanza magnetica nucleare. Ma ci sono pericoli? No, sono pericoli perché mi girano le palle. Questa è l'unica roba aliena che sento dentro di me adesso. Assolutamente. Ecco, no, assolutamente. Certo, mi certo, girano proprio veloci. Aspetta. Soggetto che viene addotto, si dice così, io sto per essere addotto, perde sostanzialmente la capacità di vivere una vita libera, perché dentro di sé c'è tutta questa serie di... E io dentro, infatti, ho proprio una rottura di palle. Lo fanno comportare in un modo completamente diverso. Ecco, esatto. Cioè, ma quante persone ci sono in Italia in questa condizione? L'1%. L'1% degli italiani. Le prove scientifiche che possono essere messe a disposizione sono tante e talmente importanti. Cioè, ma lei sta dicendo una cosa aliena. Lei sta dicendo delle cose abbastanza sconvolgenti. Cioè, lei sta dicendo l'1% della popolazione italiana è posseduta in parte dagli alieni, giusto? Esattamente sì. A me manda i matti la macchina aliena. Io vi chiedo veramente scusa, ma la macchina aliena. Scusi, spieghi un po' allo scettico. Mi fa girare i coglioni. Allo scettico. Ah, ha parlato quello. Ah, l'altro Cruciani invece no, crede alla macchina aliena. No, signor io Cruciani, dico, spieghi a Parenzo la macchina aliena. Ecco, mi spieghi la macchina aliena, per cortesia. Perché a me questa cosa qui le assicuro, ma con rispetto. Io aspetto, ma questa cosa mi manda i matti, la macchina aliena. Certo. Anche perché ho preso la patente da un anno e mezzo io. Lei pensa che ci siano delle macchine aliene che. Cioè degli UFO praticamente che arrivano sulla Terra? Ovviamente sì. Cioè, allora, praticamente per entrare nel nostro cervello, questi alieni si poggiano con una macchina, con una specie di astronave. Anche. Lei ha mai avuto, scusi se glielo chiedo, dei problemi in famiglia, di qualche disturbo, magari di qualche depressione? No, mi dispiace. Nessuno. Scusi, ma è vero che questi alieni mettono, detto che mettono le microspie, i microchip nella testa, ma anche in altre parti del corpo? Le introducono in altre parti del corpo? Te lo dico io dove ti introduco tra un po' il microchip, te lo dico io, guarda, se continui. Cioè dove? Sostanzialmente nel quello che noi abbiamo potuto vedere, insomma, nello stomaco, di fronte alla ghiandola pineale, supposte praticamente, quelle che sono supposte. Nelle gambe? Nell'alluce del piede, solitamente il sinistro. Nell'alluce del piede mettono i microchip. Ma chi mettono? Cosa stai chiedendo? Ma quali cosa dici? Perché nell'alluce, professore? Scusi, perché nell'alluce? Non ne ho la più pallida idea. Indaghiamo su questo. Indaghiamo, apriamo un fascicolo, facciamo uno studio sul perché l'alluce e non il pollice, ad esempio. Sì, o il dito medio. Comunque, perché non lo mettono nel dito medio? Non lo mettono nel dito medio, ma lo mettono tra il medio e l'indice. Hai capito. Comunque, la serietà è incredibile. Allora, il professor Corrado Malanga ci rivela l'1% degli italiani. Sì, come di Alberto Sordi. L'1% degli italiani è visitato dagli alieni, rapito dagli alieni, giusto? Sì, con le macchine aliene. Giusto, confermato, tutto confermato. Almeno l'1%. Almeno, ma non ci mancherebbe altro. Saluti. Arrivederci, buon lavoro. Saluti, caro. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Come ha fatto a vederlo? Ma scusa, le carte, ho messo giù le carte. Mi deve pagare. Sì, io vedo molto negativo. C'è tensione, tradimento. cazzo te la prendi pure con chi prende Viagra, Cialis, eccetera? Ma che problemi hai? Io sono una persona che ha più di 50 anni, ho problemi di disfunzione causati da un tumore su una ghiandola, per cui ho problemi di disfunzione. Il dottore mi ha prescritto il Cialis, io lo prendo e non per questo mi devo sentire in colpo, devo sentire delle campagne del cazzo moraliste da te. Cioè, che cazzo c'hai contro chi prende il Viagra o chi prende il Cialis? Che moralismo basso ti può portare contro queste persone, voglio dire. A me per il momento ha salvato un rapporto, quindi contentissimo di averlo preso, e ancora oggi quando ha bisogno lo uso e non mi sento assolutamente in colpa, anzi. Non capisco perché uno si dovrebbe sentire in colpa, secondo te, a prendere delle pasticchette. Cioè, me lo sai spiegare quello no, che hai detto non ieri? Non dico in colpa, però sicuramente se non è più all'altezza di fare certe è meglio ritirarsi. È meglio trovare anche, come dire, ragioni dello stare insieme che non sono semplicemente legate a questa mucchiata di corpi. Ma che c'entra la mucchiata qua di corpi? Ci sono no, corpi. Voglio dirti. Ma cioè, se l'uomo vuole avere, vuole soddisfare no, la sono... donna. Sì, benissimo. Perché come non gli tira più, usa Viagra, Cialis, sì, o quant'altro. La cosa che ancora una volta mi stupisce dopo 6 anni e continuerà a stupirmi ad libitum, diciamo, è il fatto che uno venga a raccontarlo alla radio. E sarei sorpreso e vorrei assistere come una mosca, come una pulce che si appoggia sulla giacca alla scena di lui quando torna a casa, la moglie lo ha sentito alla radio e lei lo guarda con quell'occhio, con quella faccia, no? Come dire, ma tanto lo sapevo che era tutto chimico. Ecco, questo pagherei per vedere la faccia della moglie. Vabbè, che con che un c'entra? Sorriso, lo guarda e gli dice: poveretto, hai chiamato da Cruciani e Parenzo, da quello schifoso Cruciani, hai parlato per parlare delle tue cose intime, ma io tanto lo so che è tutto chimico. Cosa c'avete stasera? Non vi siete manco fatti una sighetta che siete tutti nervosi? Sono tranquillissimo io, per la verità, non so chi è. A proposito, tipi da Zanzara, Fiorella da Udine. Tipi da Zanzara. No. Fiorella da Udine, la nostra amica Fiorella da Udine, sì, Parenzo. Sì, oddio, io sono molisana, vivo e insegno a Udine. Non so chi sia. Come non sai chi sia? Te la dovresti ricordare, adesso fra poco te la ricorderai. Non è che so tutti i mostri che chiamano qua. Vabbè, ma è la demenza senile che lo fa parlare. Ma io non è che posso ricordarmi che tutti i dementi che chiamano. Ha anche la demenza senile, sto coglione che parla... Ma sì, stai un po' zitto e fammi adesso parlare. Ho capito, forse cosa, adesso ho capito. Io ho chiamato per intervenire, non per sentire te. L'insegnante, quindi questa, tacci, è l'insegnante. Tacci. Guarda, cosa, prima di adesso, parlare con me, lavati la bocca con la candeggina. La signora. Latrina che non la sei signora altro. Ricordiamo a tutti, sì, che è una professoressa, caro, questa. Come ti rode che non hai avuto una professoressa? Ricordiamo, come me, che magari imparavi ricordiamolo, qualcosa. Ricordiamolo. Magari, ricordiamolo, no, ministro Fedeli. No, ricordiamo, Somaro, che questa insegna nelle scuole pubbliche, questa. Devo smentire quell'essere immondo che ti affianca. Perché smentire? Cosa smentire? Ti spiego, io ho avuto. Allora, lei ha avuto tanti problemi, è caduta dal seggiolone da bambina, guarda, e questo lo sappiamo. Ma io ti aspetto fuori, ti faccio una faccia come la fisarmonica. Lei è professoressa, guarda. Lei? Professoressa della scuola pubblica? Tacci, non ti voglio sentire. No, lei è professoressa, giusto? Ricordiamolo. Ti faccio nero. No, lei non conta niente, perché lei non conta nulla, sì, semplicemente perché è un insegnante che si dichiara fascista, quindi per me non conta nulla. Allora, io e detto, non dovrebbe neanche insegnare per me. Allora sei ignorante, non perché è donna. Fascismo e nazismo sono due cose diverse. Ma grazie. Usano fioriere a Udine come latrina di giorno, di notte, in presenza di anziani. E tu stai dicendo immigrati che pisciano, immigrati che pisciano. Sì, di giorno davanti ai bambini. Cari fratelli, come li chiama quel deficiente? Parla il di signor me in Parenzo caso. Ha tanto di giardino, usatelo come cesto. Non ho un giardino. Giardino di Parenzo. Non ho un giardino. Usatelo, ho un terrazzo. Allora non ho un giardino. Sa tua la differenza tra giardino e terrazzo? Nel cesto di casa tua, perché io. Bello l'elogio della professoressa, musulmani, interessante. E quant'altro, non ne e voglio vedere né tutto italiani insieme. Per strada né è interessante. Musulmani. Fermi tutti, ciao. Andate Fiorella, tutti a casa di Parenzo. Tipi da Zanzara. Oh, caro Parenzo, che bello ricordare certe battaglie qui alla Zanzara, bellissimo. Allora, a proposito di convivenza tra italiani ed immigrati, c'è un caso che mi ha colpito, un signore che si è rivolto addirittura al sindaco di Ancona, perché lui abita ad Ancona, perché dice: io ho il condominio invaso da immigrati, o comunque c'è una famiglia molto numerosa di immigrati che dà fastidio, non riusciamo a vivere, non riusciremo più a vendere le nostre case che si sono improvvisamente deprezzate. Questo tizio si chiama Baldoni. Chiamiamolo. Pronto? Sì. Parlo con Davide Baldoni? Sì, sono io. Buonasera. Veniamo ad apprendere che lei si lamenta perché ci sono un po' di immigrati intorno a lei, è vero? Beh, certo che è vero. Ma che succede in questo luogo? Dove si trova lei? Ad Ancona? Sì, mi trovo ad Ancona. Ci racconti un po' perché è un problema questa convivenza con 14 migranti? 14? Ma è il numero, allora, non 14 migranti. Aspetta, quanti sono? Ma ufficialmente credo che siano 8. 8 migranti. Poi... Mamma mia, 8? Ma qual è la tua preoccupazione? Scusami, Davide. 8? Allora, sono 8 in 500 metri quadri, per cui è sicuramente una situazione promiscua. Sì. Secondo problema è che viviamo in un condominio dove siamo 4 nuclei familiari, tutti con 8. Bambini piccoli e con una situazione assolutamente non verificabile da parte nostra, nel senso che c'è un via vai continuo di persone, certo. Nel senso che perché si muovono persone... anche, cioè si muovono liberamente. Sì, anche non hanno il guinzaglio o la museruola, magari, cioè si muovono magari... in modo si muovono, insomma cioè, lasciali, un padrone, non hanno uno che li tiene spiegare perché è un problema. No, chiedo scusa. Non c'è il generale lì da quelle parti, no. Nessuno è razzista, nessuno con gli africani. E perché è un problema? Spiegami perché è un problema. Il problema è che si sono verificati e continueranno a verificarsi episodi che sicuramente non sono accettabili. Per esempio? Spaccio di stupefacenti. Poi? Ad esempio, abbiamo beccato un ragazzo e una ragazza, magari capita che c'è voglia di sfogarsi e lo fanno sulle scale, l'abbiamo beccato. Vabbè, quello esiste pieno di italiani che scopano sulle scale adesso, cioè, non è una novità, no? No, però magari vengono denunciati, arrestati, vengono multati. Invece questi? Questo non accade. A Parenzo piacerebbe una situazione del genere a casa sua. Adesso, ieri, no? La zona dove abito io, il quartiere, questa zona qui, non è fatta di soli 8 migranti che vivono nel mio condominio, ma si è trasformata in una casba. Sesso lungo le scale, continui i controlli della polizia. Il crocifisso lo dica dalle più scale. Volte a Cruciani che si trasferisce lui in questo palazzo. Se lei dice che c'è sesso lungo le scale, non è quello il punto. Mi stupisce questo. Cioè loro girano liberamente, cioè non hanno la museruola, girano come fossero degli umani normali. Escono dal portone e pisciano di fuori, e quindi non si riescono a tenere al guinzaglio questi immigrati sostanzialmente, mettergli un collare, non si riesce, no? No, cioè, il discorso a me è quello che fa profondamente. Ma hanno tolto incazzare. Anche un crocifisso? Che hanno fatto? Hanno tolto un crocifisso? Sì, nei primi tempi in cui, mamma mia, poche settimane dopo che erano arrivati, c'è una ragazza che ha attaccato un'immagine. Un crocifisso. E questa cosa è sparita. Hanno rubato anche il crocifisso. Hanno rimosso, chiamare Vittorio Feltri. Rubato. Ma cosa? No, io chiamai, ma rubano chiamai, anche il crocifisso, chiamai, ma è così incredibile. Hanno usato il crocifisso per fare per seviziare qualcuno, magari. Come dire, ha fatto bene, certo, perché insomma, va pure rispettate. Rispettate le credenze rubano pure il crocifisso. Lorenzo, no, adesso mi parla solo. Allora, vedo già il titolo. Fallo parlare lui. I negri rubano il crocifisso. Il punto è che a me e fa incazzare me, credo faccia incazzare la stragrande maggioranza degli italiani, è che l'assegnazione di migranti all'interno dei condomini viene fatta non coinvolgendo assolutamente chi poi ne va a pagare le conseguenze. Ma questi chi li ha mandati nel vostro condominio? Una cooperativa. Cioè tu dici è impossibile convivere con questi 8 migranti all'interno del condominio? Nelle condizioni in cui viene agita questa cosa è impossibile. È una porcata. Che avete intenzione di fare dopo? Ma adesso vediamo, oggi hanno arrestato un ragazzo gambiano lì sotto a poche centinaia di metri che spacciava eroina. Se ti mettono dentro casa, dentro a Prati, certo non può avvenire a Prati, ad Ancona in periferia, dove immagino sia la casa di questo signore, invece piazzano all'interno di un condominio 8 persone che non hanno niente da fare. Io non abito a Capalbio, questa è la cosa, è questo che mi fa profondamente incazzare. Certo, dentro casa tua piazzano, dentro condominio di gente per bene, più o meno con bambini, piazzano 8 persone che spacciano, fanno il cazzo che vogliono, non hanno niente da fare. La questione non è questa, è che questa cooperativa dovrebbe gestire ogni 24 ore su 24 l'inserimento di queste persone. Ho detto che la cooperativa se ne dovrebbe occupare, non è che dovrebbe semplicemente. Ma non si possono mettere questi dentro un nuovo condominio, devono continuativamente garantire una presenza. Cioè, la cooperativa non deve. Eccolo là l'altro. La cooperativa deve essere presente 24 hours. Questo è il tema. Maschioni neri dentro il tuo coso con le tue figlie piccole ti incazzi, non mi dire di no perché ti incazzi. Ma non c'è gestione sicuramente, ma come hai di qualunque di cosa? Non è che metti 8 persone lì e basta. Io non sto dicendo che quelli sono stupratori, ma può accadere. Vabbè. Guardiamo le statistiche, no? Chi commette crimini in Italia? Beh, chi commette qui le statistiche in proporzione, la stragrande maggioranza è di extracomunitari, punto. Ma dove le avete viste queste date? Ma chi le ha dato? Il centro studi è dalla vostra parte. In proporzione, ma chi le ha dato? Il centro studi libero vi ha dato questi dati. In proporzione è così. Il centro studi libero, va bene. Secondo i dati del centro studi libero, il 90.9% dei reati di sangue sono commessi da A, nigeriani, B, marocchini, D, dai ragazzi, il centro studi libero, su, ma di che ciao Davide, mi raccomando, salute. All'attacco. Vi amo. Ciao. Parenzo, prima di criticare la destra, Mussolini, fai sempre il linguaccione. Guarda quello che cazzo avete fatto e state a fare voi in Palestina. E fatevi un esame di coscienza, che non è che siete tanto diversi. Ma Crociani sei un criminale, ma come fai a dire che il pelo ci vuole? Ma che schifo! Ma la mia ragazza ti segue, adesso è iniziata a non depilarsi più, cosa faccio? La lascio, per colpa tua? Ottimo, ragazzi, meno pelo significa meno sesso. Meno pelo significa meno arrapamento. È normale che sia così. La figa depilata fa schifo, diciamo la verità, fa schifo. Io non ho ancora capito cosa piace a Parenzo, ma una volta mi ha detto che c'era il filetto. Il filetto. Dottore è andato a sinagoga, non può parlare, specie a modo polchelie. Non palla queste polchelie, palla mai, polchelie molto educate, dottore, anche con signola quando serve tavola con blocca di cristallo. Dottore, mai sentito una volta dire le parole brutte tipo Ana, la lobbe, pompe? No, palale polchelie. Dottore, un cazzo! Davide! Ciao, sì, ci sono. Dimmi Davide. Ma stavate parlando di fiche depilate, ho sentito male? Anche sì, en passant. No, stavamo parlando del sindaco di Londra. Almeno la striscetta, sennò proprio non mi invoglia proprio. Non mi invoglia. La striscetta. Quello è il minimo sindacale, direi, no Davide? Il minimo sindacale minimo, è la striscetta. Io non mi accontento nemmeno della striscetta, mi fa orrore. No. Anzi, la striscetta così tutta precisina, eccetera. Però se posso intervenire su questo, mi sembrava interessante quello che ha scritto oggi Paolo Mieli sul Corriere della Sera, cioè i paradossi di Corbyn, cioè il leader laburista. Non me ne frega niente. Non è meglio di questo la che stavate parlando? No, è meglio la striscetta della figa. Pensavo Davide, fosse allora il tema Corbyn. Ti volevo parlare di una mia personalissima formulazione di un Viagra naturale, che vi faccio da me. Un altro spostato, il Viagra naturale che tutti fanno. Cioè non è. Adesso ragazzi, non dovete pensare tutti che è facile fare un Viagra naturale dopo l'esperienza del Conte Mascetti. Non è così. Io lo faccio utilizzando diversi aminoacidi. Gli aminoacidi. Poi? Sì, come arginina, citrullina, poi ci metto un po' di zinco, magnesio e la vitamina B6. Vabbè, ma dai, ma stai scherzando, non è vero. Sono serio, ti giuro. Ma non possiamo dire alla gente che poi lo fa, dai, già ci vogliono denunciare per mille cose. E farebbero bene a denunciarci. Io ho una formula potenziata pure, per quando, insomma, sono chiamato a sostenere una lunga fatica. Ci aggiungo anche l'elecarnitina e la betalanina. Vabbè, ma è con questo che succede poi? E che succede? Che succede? Che se poi la sera non si conclude, sono problemi miei, perché non riesco a prendere sonno. Questo è sicuro. Vabbè, Davide, ciao, Claudio. Ciao, Claudio, ciao. Non fate, non prendete appunti. Claudio, dimmi. Pronto, vorrei fare un ragionamento con domanda finale per Parenzo riguardo ai Rom. Sì, non userei la parola ragionamento, comunque nel suo caso. Prego. Sì. Ieri Parenzo diceva: bisogna chiudere i campi rom, costruire case, aiutarli ad integrarsi. Sì, superarli sicuramente, metterli però, in sicurezza intanto. Quando affronta questo fenomeno, sottovaluto l'esasperazione dei nostri concittadini che dopo decenni di fallimento, di fallimenti, cercano una soluzione immediata al problema. Ragazzi, Claudio, è la fine di una serata. È la fine di una serata. Sì, d'accordo, è la fine di una serata e anche della settimana. Questo è appunto un ragionamento, come diceva una volta De Mita. E io mi sono già fatto due palle così. Io devo salutare perché vado a fare il digiuno dello Yom Kippur. Ma qual è la domanda? Non mi interessa. Oggi è il giorno del Kippur, il giorno del digiuno. Basta, non mi interessa. Ma il tuo giorno, a me non me ne frega. Io mangio stasera come era dannato. Ma che mangi? Qual è la sinistra? La risposta della sinistra nell'immediato a questo problema, qual è? Io ho la mia, ma nell'immediato. E qual è? Qual è? Perché la destra... Qual è la risposta? Dimmi, qual è? La destra offre la risposta di cacciare tutti, diciamo così, a prescindere tutti. Vabbè, i migrati, poi? È la destra. Io invece ho la mia. Qual che è la tua? Dovrebbe Vabbè. Essere... Ma uno, la mia pane e mortadella. Qual è? Militarizzazione dei campi rom. Vabbè, controllare 24 su 24 gli adulti affinché ad ogni reato corrisponda un processo e quindi poi la galera. Claudio, mi hai fatto venire il latte alle ginocchia, non ce la faccio più. Eugenio, ti prego, non ce la faccio, è uno stillicidio, Eugenio. Pronto? Dimmi Eugenio, dimmi. Salve, buonasera. Allora, niente, volevo parlare del problema immigrazione a Salerno che sta in pratica imperversando in questi ultimi... Sì, lo dice il governatore del mondo, dice che c'è un'invasione. Sono pronti a militarizzare la città gli immigrati neri, Sì. È vero, confermi? Ha ragione il governatore del mondo? Certo, sì. Allora, ultimamente è successo che... Si occupasse del problema, visto che è presidente della regione, anziché militarizzare la zona. Comunque, andiamo avanti, dai. Posso? Allora, ultimamente è successo che in settimana due nordafricani hanno aggredito dei vigili urbani che si sono trovati sulla lungomare. Vabbè, allora? Cioè la città non è più sicura come una volta. Vabbè, città ma questo, non è più questo ce l'hai detto, dunque? Città non è più sicura come una volta. Dunque, io credo che dovremmo attuare... Credo che dovremmo attuare. Che cosa dovremmo attuare? Diciamo una legge diversa, tipo come c'è in Inghilterra. Io per esempio ho vissuto in Inghilterra. La legge marziale, glielo dico io, la legge marziale, cioè bisogna dire, bisogna avere un controllo su chi arriva in Italia. Legge marziale, cioè dopo le 9 di sera i negri non possono uscire di casa. Io farei questo. È forse una misura un po' drastica, però sicuramente sarà condivisibile dalla popolazione. No, vedrete che il grande popolo della Zanzara sarà d'accordo con me. Hai qualcosa da dire oppure no? Dopo le 9 di sera i negri non possono più uscire di casa. Questa legge marziale ci vuole, ve lo dico io, la legge marziale. Arrivo perché in Inghilterra non ti fanno entrare, se tu non hai un richiamo da parte di qualche persona che vive lì da anni, tu in Inghilterra non ci entri. Bravo, sono d'accordo. In Italia entra chiunque, in Inghilterra devi dimostrare che tu in pratica hai un lavoro, una persona che paga le tasse, sei una persona che non dà bene e puoi richiamare qualche tuo parente in Italia. Quelli ciao Italia amico mio, è Eugenio. Entrano di tutto. Eugenio, avanti tutta. Ciao ragazzi. Verso dove? Ciao.